Il punto di Stefano Folli. L'intensa visita del Papa a Lampedusa colpisce per l'assenza dello Stato italiano, salvo alcuni funzionari. Assenza decisa dallo stesso Francesco, che aveva fatto capire di voler essere solo. È un dettaglio singolare, ma significativo. Ne esiste forse un solo precedente. Quando Pio XII andò nel quartiere romano di San Lorenzo il 20 luglio del 44 per abbracciare i romani colpiti dai bombardamenti, anche allora era solo e accanto a lui non c'era alcun rappresentante di uno Stato italiano in disfacimento. Il paragone è un po' forzato, tuttavia ha un senso. Con quel gesto Pio XII pose le basi del ruolo che il papato svolgerà nell'Italia del dopoguerra. Con il viaggio a Lampedusa verso il sud del mondo, Francesco indica come intende svolgere la sua missione presso i più poveri. L'assenza dello Stato italiano a 70 anni di distanza ha cause diverse, ma un'unica conseguenza. Il papato tende a riaffermare la propria autonomia e supremazia sulla politica e persino sulle istituzioni.